stare la università è una cosa de locos. Loco, stare la università è una fiesta de monos. Derecho y arquitectura terminas en una